Ehi, Francone, il presidente, Bolla G, Padama, Joker. Beat Street Lovers, qua componi il puzzle, anche quando la vita è una merda. E sulla panda con la spia della riserva accesa, a volte senza i soldi manco per fare la spesa. Nella mia casa non è mai mancato niente, scagli la prima pietra chi è senza peccato. Di questa torta voglio solo la mia fetta, ma tu se ingordo non arrivi al caffè. E sotto casa c'è la gente che aspetta, e non è certo per prendere un tè. In questa vita qual è stato il mio peccato? Una condanna a vita per aver sognato. L'aria ti manca e se ne scappa dalle sbarre, e giù si pare è terminata la mia bara. Ho visto gli occhi del mio cane mentre stava morendo, era giusto farlo e sono morto anch'io ma dentro. Ma se il dolore è l'altra faccia dell'amore, a cosa serve amare se l'amore fa morire? E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, e tutti quanti con i piedi nella merda. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, e ci scagniamo per avere un posto al sole. E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, e tutti quanti con i piedi nella merda. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, e ci scagniamo per avere un posto al sole. Fermami ora perché dopo è troppo tardi, fra. Questa vita m'ha fregato quando m'ha rubato i sogni, fra. La strada è ancora là e non posso fare sbagli. Lode nel mio corpo e vedo il fiuto degli spirri, fra, fra, fra. Amico dimmi tieni stretti i pugni, anche se vorresti usarli per riconquistare i sogni. Ma niente torna indietro, solo un mondo di rancore. La merda è sempre merda anche fuori di prigione. Domani un altro giorno c'è bisogno di lottare. La vita nei quartieri è solo un mondo che c'ha fame. Domani un altro giorno e saremo ancora lì, in piedi sguardo fiero perché questo è il nostro film. E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, fra. E tutti quanti con i piedi nella merda, fra. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, fra. E ci scagniamo per avere un posto al sole, fra. E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, fra. E tutti quanti con i piedi nella merda, fra. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, fra. E ci scagniamo per avere un posto al sole, fra. Ripeti, poi ti affezioni a quello che disprezzi. Senza soldi, pochi sogni, sono in molti a colpire da dietro. Gli occhi nelle spalle io vi vedo, alle parole che sprecate non credo. Alle illusioni, soldi facili non cedo. Prima o poi si troverà il rimedio. E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, fra. E tutti quanti con i piedi nella merda, fra. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, fra. Scagniamo per avere un posto al sole, fra. E siamo chiusi dentro un vaso di dolore, fra. E tutti quanti con i piedi nella merda, fra. Siamo cadaveri però non ci pensiamo, fra. E ci scagniamo per avere un posto al sole. La notte mi tormenta, domani il mio cuore più non so. Accettare il male causato a te mi affligge. Vorrei fuggire, gettare il mio corpo tra le viscere per liberarmi di questo penoso tormento. Offro la mia anima alle tenebre, ma mi respingono, perché un'anima più non ho.